o è una storia sbagliata. Per il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto dispiace, non ci chiedere più com'è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata. Buongiorno, capitano, le donne. Non si offende se non le stringo la mano. Vero. Siamo qua per lavoro, non per amicizia. Allora, che da siedere ancora l'arma dei carabinieri, Davido San Gemino? Vogliamo sapere se intende collaborare. Ho sempre collaborato. In modo, diciamo, non ufficiale. Quello che sta succedendo a Palermo ci preoccupa molto. Ha ragione, capitano, ha proprio ragione. Ma io sono sconcertato. Abbiamo bisogno di sapere cosa hanno in mente i suoi amici. Quali amici, capitano? Io sono un pregiudicato. Non mi vedo più i miei amici da molti anni. Non dica sciocchezze, Ciancino. Lei ha i mezzi per entrare in contatto con loro. E anche se ci riuscisse, queste stragi devono finire. Si può sempre collaborare. È con queste parole che Vito Ciancimino, sindaco di Palermo, già condannato per mafia, incontra il capitano De Donno durante il suo soggiorno romano. Francesco, ho detto qualcosa che non va? Forse non devo fare qualche nome scomodo, ma sono fatti di cronaca. La procura di Palermo in questi giorni sta indagando, c'è un processo in corso a Palermo appunto sulla trattativa Stato-mafia, trattativa già confermata dalla sentenza passata in giudicato sulla strage di Firenze e che adesso vuole smascherare quelli che furono i mandanti politici o quantomeno i collusi rispetto a un fenomeno che sicuramente ha segnato la Stanno chiamando dalla procura di Palermo. La procura di Palermo al telefono. Non abbiamo nulla da nascondere noi. Semmai forse ce l'avranno gli imputati di questo processo che si sta svolgendo a Palermo. Un processo che sta facendo tanto rumore perché, come dicono bene i PM palermitani, se solo qualcuno parlasse all'interno del mondo delle istituzioni, sicuramente raggiungeremmo delle verità scomode che ci permetterebbero di accendere quella luce che ha dato il nome anche alla nostra trasmissione. Sono timidi. E come facciamo a farli parlare, Francesca? Ma io perché denuncia ce le avrei, però sono un po' incostituzionali. Il capitano De Donno eppure c'era riuscito a far parlare Ciancimino, tant'è che lui un bel giorno si presentò con un pezzo di carta lì a Roma. Ha fatto presto, capitano. Allora? Certi amici mi hanno chiesto di farle avere queste carte. Con chi ha parlato? Capitano, io lo so che il suo mestiere è quello di fare domande. Si lega questo papello. Qua c'è scritto tutto. La revisione del maxi processo, sospensione del 41 bis. Siamo impazziti. Stiamo perdendo tempo, Ciancimino. Cosa crede che i corleonesi si fermeranno a Faccone e Pozzallino? Non si azzardi a nominarli mai più. Comunque non spetta a me decidere. A nemmeno a me. Queste sono le loro condizioni. Le loro condizioni? Come avanzate di fermarli? Il governo ha appena deciso di mandare l'esercito in Sicilia. A fare cosa? La guardia ai semafori? Capitano, peccerette di leva che non capiscono nemmeno il siciliano, se quanto gliene fotte con leonesi. Abbiamo già 300 collaboratori di giustizia. Voi non avete bisogno dei nuovi pentiti. Quello che dovevate sapere lo sapete già. E lei, Ciancimino, vi propone questo. Libertà per gli ergastolani, abolizione del carcere duro. Niente più processi per i suoi amici. Bella trattativa con il suo amico Ina. Io sto rischiando la pelle, capitano. Siete stati voi che mi avete chiesto di fare qualche cosa. E poi nessuno mi chiede di trattare con Ina. Che intende dire? Che i corleonesi non sono più una famiglia unita. Condizioni abbastanza plausibili quelle avanzate tramite Vito Ciancimino da parte dei corleonesi. Alla fine, fra, voglio dire, no, revisione, due cosucce. Revisione del maxi processo e sospensione del 41 bis. Sì. Ah sì, cioè, giusto, buttavano nel cesto. Ma secondo te, in uno stato di diritto sarebbe mai possibile garantire una cosa del genere? Io credo proprio di no. Ma, boh, sai, Ti vedo molto perplessa, eppure ti devo dire che è accaduto. Secondo la procura di Palermo e secondo appunto gli atti delle indagini, pare che con provvedimenti sempre più misteriosi, spesso anche evanescenti. Sì, ma la procura ci sono le toghe rosse. Le toghe rosse, le toghe fucsia, blu, violacee, chiamatele come volete. Fatto sta che tra un ministero e l'altro, lo ricordiamo, in quegli anni ministro della giustizia era Claudio Martelli, gli succedette Vincenzo Scotti, mentre all'interno avevamo Nicola Mancino. È proprio in quegli anni che abbiamo dei provvedimenti che adesso sono al vaglio della procura. Ma Mancino lo stesso. Mancino, vero? Quello delle telefonate. Quello che gli piace il telefonino. Comunque noi lo sappiamo, non si può intercettare il Presidente della Repubblica. No. Lo ha detto la Corte Costituzionale, quindi ve ne prego, rispettiamo le sentenze. Non chiamate Giorgio Napolitano se avete qualunque tipo di problema. Ma neanche per le vendite porta a porta. Quello che possiamo fare sicuramente è avvalerci delle prerogative del Capo dello Stato. Di conseguenza sappiamo che se voi lo chiamate è un'email possiamo andarla tutti. Ma lasciamo stare appunto il fatto in sé del problema appunto delle chiamate, che lo sappiamo da anni e sono un attimino all'ordine del giorno fra i problemi della nostra classe dirigente. Proprio passiamo al Mancino ministro, il ministro appunto che ha negato quell'incontro con Paolo Borsellino pochi giorni prima della strage di Via D'Amelio. Vabbè, dai, Peppe, tagliamola. Sì, direi che è il momento di mandare un po' di buona musica, altrimenti dai, provaci. I nostri ascoltatori si stancheranno. Abbiamo anche una maestra, sai, adesso sentiamo la tua pronuncia. Io volevo lanciare una canzone che abbiamo visto sul Divo come colonna sonora, si chiama Top Top di Cassius, giusto Elisa? Tup tup. Top Top. Tup tup, capito? Qualche problema di pronuncia. Tup tup con Cassius. Some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more shame to keep on fight. Hanging out to hear the ring. All I get is a machine. After all the world we've seen, I got my heart set on a machine. You can just put on mine. So I got some peace of mind. Andreotti percorre tutta la politica italiana fin dal 46. Ce lo ritroviamo sulla gobba, sembra quasi ironica la cosa. La gobba sua o la nostra? No, lui sicuro ce l'ha la gobba. Di marmo. Dal 46 oggi poi ha voglia di gobba stare su quegli scranni in Parlamento. Sono scomodi. Ma infatti, poverino, poi pensa adesso tutti gli acciacchi dell'età. Beh, comunque è una figura che percorre sfortunatamente, o fortunatamente, per fortuna purtroppo, tutta la nostra storia dal 46 ad oggi. E quindi c'era anche negli anni delle stragi, c'era anche prima degli anni delle stragi, c'era sempre Andreotti, una costante. Un libro di storia. Infatti un libro di storie, e da lui infatti possiamo ripercorrere, grazie anche ai suoi processi, non solo al processo sulla trattativa Stato-mafia, parte della storia ambigua e misteriosa dell'Italia di quegli anni. Andreotti ha un famosissimo processo a suo carico che inizia nel 95 e viene portato avanti da Giancarlo Caselli. Infatti dalle rivelazioni di collaboratori di giustizia quali Buscetta, Messina e come cavolo si chiama? Mannoia, ma dopo quando Mannoia? Fiorella Mannoia, poraccia. No, Mannoia era un cattivone prima, poi è diventato buono. Beh, no, non proprio buono. Cosa ci hanno raccontato questi buono qua? Cattivo più o meno, vabbè. Comunque hanno detto un paio di cosette abbastanza pesanti su Andreotti. Cioè, per esempio, l'hanno definito il principale referente politico nazionale di Cosa Nostra. Sì, vabbè, ora una mattina si sveglia un pentito e dice che sono tutti colpevoli, tutti collusi. Come faccio a dargli credito a queste persone? Bella domanda, Pepe. Io ti voglio veramente tanto bene. Per questo ho 4 minuti per parlare. Ma posso capire, cioè, dai, forse è stata cosa provata, accertata. C'era Andreotti che si baciava con Rina. C'è anche sta leggenda. C'era anche sta leggenda. Ma poi sai cosa si diceva anche? Che nel 79 Andreotti avesse incontrato Stefano Bontade, un altro, quello che hanno definito della mafia buona, cioè da dire, oh, perché la mafia buona, no, quella che non spara, sì, che non ammazza. No, mai. Mai. Mai. E solo quelli che hanno iniziato i traffici di eroina a Palermo, ma sì, ma lasciamo perdere. Storia vecchia. Andreotti, 89. Che fine ha fatto, poverino? Andreotti... vabbè, è sempre in Parlamento, giudizialmente, che ha fatto? Però giudizialmente nel 2003 è stata emessa questa benedetta sentenza a carico, cioè che doveva andare a chiudere il processo Andreotti, e in effetti lo chiude, solo che lo chiude in un modo tutto italiano, ovvero Andreotti per i giornali, per il talk show, per tutta la giustizia civile, no, la giustizia civile, per tutta la popolazione civile, Andreotti risulta assolto. Assolto vuol dire che non ha mai commesso un reato, assolto vuol dire che non ha mai... Cioè, vuol dire che non dobbiamo dare credito ai pentiti. Ma no, ma poi soprattutto, cioè... Vuol dire che ha pulito, insomma. È pulitissimo Andreotti. Può entrare in Parlamento. E invece? Cioè, già. Il potere l'ho. Stefano, non ci dare degli invidiosi, non lo siamo per niente. E invece, Fra, tu hai informazioni invece, più precise. Sì, cioè nel senso che se leggete bene la sentenza, Andreotti, come risultò poi un po' più tardi, non subito dopo, ma poi se ne sono accorti, insomma, Andreotti in realtà la sua sentenza è caduta in prescrizione. Prescrizione vuol dire che il reato non è più perseguibile perché è caduto appunto in prescrizione, perché è scaduto dopo che tu commetti un reato, scade tipo il latte. Questo ha una scadenza abbastanza lunga perché è 22 anni, però scade più o meno come il latte. E il reato che giuridicamente era... giuridicamente perfetta. Vero? Io mi laureerò subito. Comunque, il reato commesso da Andreotti è quello di associazione per delinquere ad associazione... No, scusatemi. Associazione per delinquere ad associazione di stampo mafioso. È ripetitivo, i giuristi sono pallosi. Comunque, i reati che Andreotti commise nell'82 furono effettivamente commessi, cioè non è che Andreotti non li commise, però sono caduti in prescrizione. Tra l'altro c'è da dire che nell'82 il reato di collusione con la mafia non esisteva effettivamente, e quindi anche questo ha creato numerosi intoppi nel svolgimento del processo. Ciò detto, mi piacerebbe riportare una frase che disse Montanelli a riguardo di Andreotti. Lo definì in questo modo: o lui è il più grande scaltro criminale di questo paese perché l'ha sempre fatta franca, oppure è il più grande perseguitato della storia d'Italia. Solo che in Italia noi siamo generosi e non c'è mai un limite al peggio, e quindi... C'è stato un sorpasso. Un sorpasso da Cattiva Strada. Benissimo, allora vi lasciamo con La Cattiva Strada di De André. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente. E adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada. sui viali dietro la stazione, rubò l'incasso a una regina, e quando lei gli disse come, lui le rispose forse meglio e come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì. Sulla sua cattiva strada. E in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse: è colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Allora, abbiamo appena sentito La cattiva strada di De André. E adesso parliamo di Dell'Utri, che insomma non si sa se abbia intrapreso una cattiva o buona strada, adesso lo scopriremo. Sì, penso che dopo il racconto sì. Si capirà la cattiva strada di Dell'Utri. Allora, tra marzo e dicembre del 92, Dell'Utri, insieme al politologo Ezio Cartotto, e mette a punto Forza Italia che appunto è nato come il partito azienda da contrapporre ai progressisti, insomma, alla sinistra italiana, ai comunisti, alle toghe rosse. Allora, descriviamo la nascita di Forza Italia attraverso la dichiarazione di patronaggio, il sostituto procuratore generale, appunto nella sua dichiarazione con la quale conclude la requisitoria davanti alla Corte d'Appello di Palermo, dove appunto chiede la condanna a 7 anni di reclusione per Dell'Utri. Allora, patronaggio dice: caduto Craxi, Cosa Nostra pose le sue attenzioni su Forza Italia. Non fu la mafia a far vincere l'elezione Forza Italia, ma votò quel partito. Avevano bisogno di un nuovo referente politico. L'hanno votato varie volte, allora. Cioè, non l'hanno fatto vincere, ma aiutato. Sì, l'hanno votato per farlo vincere. Mi piace partecipare alla mafia. Si è contenta. Quindi è in quel momento, storicamente, che secondo i magistrati della Procura di Palermo, che indagano sulla trattativa Stato-mafia, secondo le toghe rosse per l'appunto, e Dell'Utri diventa l'uomo cerniera, appunto, il filo conduttore, colui che riesce a portare le richieste di Cosa Nostra all'interno del partito, che nel frattempo ha vinto le elezioni in Italia. Allora, adesso ripercorrerò brevemente le tappe più importanti nella carriera, nella vita di Dell'Utri, proprio perché la cosa assurda è che il numero dei processi a suo carico è direttamente proporzionale al suo successo in politica. Nel 1996, mentre Dell'Utri è imputato a Torino per false fatture e frode fiscale e indagato a Palermo per mafia, diventa deputato di Forza Italia in Parlamento. È che era pubblicità gratis, non capisci? Nel 1999, dopo aver patteggiato una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione appunto per frode fiscale e false fatture, viene eletto parlamentare europeo per Forza Italia. Non basta. Nel 2001 è eletto senatore della Repubblica nel Collegio 1 di Milano. Nel 2008, dopo essere stato condannato precedentemente nel 2004 in primo grado per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, è ricandidato al Senato. Il 19 gennaio 2013 Dell'Utri dichiara di volersi ritirare dalla scena politica, quindi poco tempo fa, in vista delle nuove elezioni, lo sappiamo tutti che ci saranno a febbraio, e appena il giorno prima, il 18 gennaio, il procuratore generale di Palermo ha richiesto 7 anni di carcere. Secondo la Cassazione sono provati i rapporti dal 1974 al 1977, quando invece il procuratore generale di Palermo sostiene che questi rapporti non si siano mai interrotti. Ora sulla posizione processuale di Dellutri incombe, avete intuito cosa incombe? Non riesco a immaginarlo, cioè mi manca proprio cosa? La prescrizione. Esatto, perché la prescrizione ci sarà nel novembre del 2014 e speriamo di non dover assistere all'ennesimo processo che in Italia si traduce in un buco nell'acqua. Forse per tanti motivi, tra i quali forse anche le sentenze di proscioglimento che non fanno mai prendere una posizione decisa ai giudici. Sì, ma Dellutri è solo uno dei tanti, uno dei 12. Io posso. Sì, più o meno. I 12. Uno dei 12 imputati del processo del quale ci parlerà adesso Federica. Sì, appunto del processo sulla trattativa. E i 12 sono Mancino, Mannino, Rina, Provenzano, Pagarella, Brusca, Cinà, Mori, Subranna, De Donno e Ciancimino. Appunto sono i 12 imputati del processo della trattativa che si sta svolgendo in questi giorni a Palermo. E già proprio sulle competenze del Tribunale di Palermo quest'estate sono state rivolte delle... Sollevate polemiche, sì, pesanti. Appunto, perché infatti si voleva, i difensori hanno chiesto più volte il trasferimento del processo per carenza di competenza territoriale, ma per fortuna invece il processo è rimasto a Palermo. E in più appunto i magistrati Ingroia, Matteo, Sava, Del Bene e Tartaglia hanno fatto un gran lavoro da diversi anni appunto per far sì che questo processo iniziasse, e quindi da queste udienze preliminari si è parlato appunto della trattativa Stato-mafia, che è vero, la trattativa con la mafia non è proprio un reato, ma appunto trattare, perché non c'è nel nostro codice. No, esattamente, però è cosa di tutti i giorni, però a intuito, in teoria, insomma, non dovrebbe essere una cosa lecita. No, ma è l'intuito. Sì, e infatti i magistrati appunto non parlano proprio esattamente del reato trattativa con la mafia, ma parlano dell'associazione mafiosa o violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. E questi ultimi giorni un altro tema che fa discutere sul processo della trattativa è appunto il tacere della Commissione parlamentare antimafia, o meglio anche un'associazione che si è dichiarata parte civile, l'associazione tra familiari delle vittime delle stragi di via dei Georgofili, appunto ha dichiarato che un nulla di fatto è stato fatto dalla Commissione sulla trattativa Stato-mafia. E un'altra dichiarazione è stata fatta proprio da Pisanu, dicendo, cioè, che ha parlato non proprio di trattativa, di trattato in mafia, ma di tacite intese che ci sono state. E appunto su questo si è molto discusso, perché non anche proprio nella commissione antimafia non tutti la pensano come Pisanu, ma appunto vogliono soffermarsi sul significato di tattiche intese, ma vogliono affermare appunto invece la trattativa e appunto quindi vogliono andare un po' più in profondità, insomma. Sì, esatto. Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti davanti della verità. Tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo. E noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io. Queste sono le parole di Andreotti nel film Il Divo di Sorrentino, ma a noi piace chiudere questa puntata ricordando invece le parole dei magistrati della Procura di Palermo che presentano la richiesta di rinvio a giudizio al GIP Morosini. Quanto sinteticamente esposto e con riserva di ulteriore illustrazione nel corso della discussione innanzi alla signoria vostra, sostanzia le ragioni per le quali si è ritenuto doveroso esercitare l'azione penale nei confronti degli odierni imputati, nella ferma convinzione che l'unica vera ragione di Stato è quella verità che questo ufficio non ha mai smesso e mai smetterà di cercare.